Nuova ora da passare insieme qui di sabato. Devo dire che questa puntata sarà ancora più movimentata del solito, è sempre piuttosto vivace, movimentata, non ci sono più le mezze stagioni, ma in particolare questa, perché parte l'ospite centrale, ma poi avremo anche più contatti del solito, uno per una cosa simpatica, un'iniziativa, una maratona molto particolare di cui sentiremo parlare, invece un altro di una situazione che poteva diventare veramente drammatica, poteva sfociare in una tragedia. Per fortuna sembra che non sia così, però poi cercheremo di capire, di aggiornarci, di sapere come stanno andando le cose. Vi ricordo che poi questo è sempre lo spazio soprattutto per voi ascoltatrici e ascoltatori, per le vostre riflessioni sulle notizie della settimana. Se avete voglia di ritornare sui fatti, sulle cose che vi hanno colpito in questi giorni, questo è lo spazio adatto, con piena libertà. Numero verde è 800 24 00 24. Devo solo porvi un limite per questa unica puntata, che è quello del cosiddetto silenzio elettorale. No? Sapete che tra un'ora circa, alle 15 precise, si aprono i seggi, si vota in Italia per le elezioni europee e per le amministrative, quindi c'è appunto il silenzio elettorale, non possiamo parlare di questioni politiche perché in questo modo magari si condizionerebbe il voto in un modo o nell'altro. Invece ci sono talmente tanti argomenti su cui ritornare ed affrontare, insomma, che abbiamo soltanto l'imbarazzo della scelta. Intanto comincio a salutare il mio onorevole ospite Giampiero Mughini. Ciao Giampiero. Eccoci, bentrovati. Bentrovato a te, che ha pubblicato da poco questo libro per Mondadori, Gli anni della peggio gioventù, l'omicidio calabresi e la tragedia di una generazione. Tutto bene intanto oggi, Giampiero? Ma speriamo, non si è mai sicuri di nulla. Infatti, su questo hai perfettamente ragione. Infatti, prima di dare spazio a Giampiero Mughini perché ci racconti un po' di questo suo libro, proprio perché non si sa mai quello che succede, mi collegherei con una collega del Sole 24 Ore, che è Sara Monaci. Ciao Sara. Sì, buonasera. Che hai vissuto un'avventura piuttosto spiacevole, sì, ma che mi sembra che per ora si sia conclusa abbastanza bene, nel senso che non ci sono morti e forse neanche feriti, se non il macchinista. Insomma, tu sei stata protagonista di un incidente sull'Intercity, sì, tra Bologna e Firenze. Cosa è successo e come stanno andando le cose? Io in realtà mi trovavo sulla linea dell'alta velocità, quindi stamattina, treno, no? Sì, un treno che è partito da Milano alle ore 8:30, che sarebbe dovuto arrivare a Napoli, non so, circa 6 ore dopo. Comunque io sarei dovuta scendere a Firenze 2 ore e 10 minuti dopo, sì, intorno alle 10:40. In realtà ci siamo bloccati lungo l'Appennino Tosco-Emiliano, in realtà proprio all'interno di una galleria, perché l'Intercity del viaggio precedente sembra abbia lasciato nel tragitto, si è proprio staccato un pezzo di locomotore che è andato addosso al treno dove io mi trovavo. Quindi una situazione anche abbastanza drammatica, perché all'interno ci siamo bloccati dentro una galleria per 3 ore con la corrente che non funzionava più. A un certo punto sono saltate anche le luci e nessuno ci dava anche notizie, delle grandi spiegazioni, come al solito, scusate, ma in genere va così. E quindi adesso però feriti, siamo appena usciti siamo riusciti a arrivare a Prato perché un locomotore ci ha trainati fino alla stazione più vicina, quella di Prato, e adesso circa, calcoliamo 1000 passeggeri, perché questo treno sta portando le persone a votare, poi a votare, tanti, no? Sì. Esattamente, sulla linea dell'alta velocità che da Milano va a Napoli, quindi ci stanno mettendo su un altro treno che da Prato proseguirà poi per Firenze, poi Roma e poi Napoli, con i disagi che potete immaginare. Eh sì, immaginiamo anche che la linea sia ancora abbastanza bloccata, se non hanno liberato completamente i binari. Già è stata ferma almeno 3 ore, no? Dicevi, Sara? Sì, pronto? Pronto? Dicevo, immagino che ci siano grossi disagi, che sia bloccata la linea ancora. Ecco. Qualche disagio c'è ancora, almeno di linea telefonica per il momento, però appunto la cosa positiva è che non ci sono state vittime, forse si è ferito lievemente il capotreno. Giampiero, allora torniamo a noi, poi magari con Sara Monaci ci ricolleghiamo più tardi per vedere se tutto va bene. Questo tuo libro, che fa un po' nel titolo la parodia, no, della meglio gioventù, del famoso film, tu invece ritieni che quegli anni di fine anni 60, insomma i primi anni 70, siano della peggio gioventù? In particolare ti riferisci all'omicidio calabresi? Beh, l'omicidio calabresi è la stazione, come posso dire, di avvio della Via Crucis, oddio, per essere molto più precisi, la Via Crucis, che è la Via Crucis italiana, la tragedia italiana, l'ingorgo della democrazia italiana comincia il 12 dicembre 1969 con Piazza Fontana, con la bomba di Piazza Fontana. E da lì una dopo l'altra, tragedie, morti innocenti, enigmi, domande irrisolte. Pinelli che cade dal quarto piano della questura di via Fate Bene Fratelli e non si capisce perché, dice si è buttato giù gridando viva l'anarchia, non era vero affatto. L'anarchico che era stato accusato. E poi comincia questa campagna spasmodica, senza alcuna base verità di fatto, contro il commissario di polizia Luigi Calabresi, che aveva allora prima 33, poi 34 anni quando lo ammazzano. E in testa a questa campagna c'è un giornale dell'estrema sinistra che si chiama Lotta Continua. E molto più tardi, nel 1988, viene fuori un pentito di Lotta Continua che si chiama Leonardo Marino e che dice: lo abbiamo fatto noi, io c'ero, io guidavo la macchina, Ovidio Bonpressi ha sparato, Giorgio Pietro Stefani, che era un leader di Lotta Continua milanese, molto duro, è stato il padrino politico, e infine Adriano Sofri, che era il capo carismatico di LC, di Lotta Continua, ha dato il vai e uccidi. A differenza di altri, io credo fondamentalmente alla ricostruzione di Marino, non ci sarebbe una sola ragione al mondo per cui lui si dovesse inventare questa storia raccapricciante, la sua storia regge al vaglio di qualcosa come 70 giudici, ed ecco qui la tragedia di una generazione. Lotta Continua non erano certo i peggiori della nostra generazione, anzi alcuni di loro erano dei migliori, però quegli anni sono stati furibondi, tutti hanno giocato con il fuoco e dunque con le pistole, e dunque con i randelli, eccetera, eccetera. Questa è la storia che io racconto, la racconto non da cronista giudiziario, che io non sono, anche se sull'argomento ne so quanto e più di un cronista giudiziario, ma la racconto da romanziere, un romanzo dove però i personaggi sono reali, non sono stati da me inventati, ma hanno esattamente quel nome, quel cognome, abitavano da quelle parti, in quel posto preciso, e hanno agito in quel modo preciso e hanno detto quelle parole precise di odio e di distruzione. Giampiero, tu sei giornalista, scrittore notissimo, leggevo nella quarta di copertina che anche provocatore intellettuale, talvolta saltimbanco televisivo? Sai, io lo dico con molta autoironia, la televisione non è una cosa seria, come tu sai. Certamente. È una cosa per passare il tempo, la più parte la si ascolta mentre si fanno altre cose, eccetera, eccetera. Io incontro della gente che mi dice: ieri ti ho visto in televisione. Non capisco cosa ci fosse da vedere, io non sono Manuela Arcuri. È raro che qualcuno mi dica: ho sentito che in televisione avevi detto quella cosa anziché quell'altra. E quindi sì, saltimbanco televisivo, perché siamo tutti un po' saltimbanchi, quelli che vanno in televisione, sia quelli che si occupano di argomenti cosiddetti seri. In televisione non esistono argomenti seri, argomenti meno seri, esiste una recita, una rappresentazione, la faccia Michele Santoro, Mike Buongiorno. E allora sì, io con molta autoironia mi definisco saltimbanco televisivo, perché certo non è una cosa seria la televisione. Più seria la radio. Le cose serie sono i libri, ma i libri, come tu sai, in Italia 8 italiani su 100 comprano libri, ma in quegli 8 italiani ci sono quelli che comprano le guide per la cucina, i libri di barzellette, quindi a comprare libri saranno messi tutti insieme. Ma poi parleremo anche di questa cosa, ma intanto, per avere anche punti di vista diversi, colleghiamoci con un altro pianeta. Riflessioni da Marte. Qui su Marte si apprende questa settimana che anche i mafiosi si deprimono. Ebbene sì, non è difficile comprendere del resto che specie da dietro le sbarre la tristezza patologica contagia pure loro, i protagonisti della criminalità organizzata. Vuoi mettere per esempio il potersi arricchire in piena libertà, fuori da ogni regola e a danno altrui? Vuoi mettere l'inebriante potere di decidere della vita e della morte di chi che sia, specie se si mette di traverso i tuoi affari o anche semplicemente se non ti garba neanche un po'? E quando tutto questo improvvisamente ti viene a mancare perché finisci in gattabuia, è assolutamente comprensibile che ti pigli il mal di vivere, pure se sei mafioso. Ma ecco che più degli psicologi, terapeutico si mostra un tribunale siculo che, mosso a compassione, ti scarcera il povero boss malavitoso e depresso e lo avvia tosto alla sua dimora. Sapete quando si dice il miglior posto del mondo è la propria casa? Ecco, il tribunale deve aver pensato che anche per il povero boss fosse la stessa cosa. Insomma, casa mia, per piccina che tu sei sempre una badia, specie se dal carcere mi porti via. Gli esseri umani, del resto si sa, interpretano la realtà a modo loro. Lo dimostra, per esempio, il mistero risolto ora, dopo diversi mesi, del mostro di Montauk. Lo strano animale, ve lo ricordate, forse il cui cadavere ritrovato l'estate scorsa su una spiaggia di New York, aveva aperto un dibattito mondiale online su cosa potesse essere, questo animale misterioso morto. Non era, come si supponeva, un alieno, no, non veniva qui da Marte. E non era nemmeno un cane mutante, né il frutto di un esperimento genetico sfuggito a un laboratorio. Si trattava niente poco di meno che di un tenero, seppure in decomposizione, irsuto, sfortunato procione. Giampiero, tu sai che la depressione si cura anche online? No, sai, io online non faccio quasi nulla, figurati se penso a curare l'eventuale depressione. Per fatto che io non sono mai depresso, e questo sono sempre è positivo. Di malumore diverso. Ah, sei di malumore che è diverso. Per chi è intorno a te, meglio che, sarebbe meglio che tu fossi depresso o di malumore. Ma perché, scusami, con l'Italia che abbiamo tutto attorno e che abbiamo avuto particolarmente c'è poco da essere allegri. Queste ultime settimane c'è da essere di buon umore. Mm. Però questa cosa della depressione online è di uno studio australiano, pubblicato sulla rivista Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, che secondo il quale appunto nelle depressioni lievi una terapia può essere efficace anche fatta online invece che faccia a faccia direttamente con lo psicologo. Hanno ritenuto, da vari esperimenti che hanno fatto, che questo rapporto del paziente con una specie di assistente online può essere ugualmente. Insomma, sai, uno non si deve negare nulla né nessuna possibilità. E poi invece, a proposito di quello che dicevi tu del fatto che la televisione non è un posto serio, pensano che sia una cosa seria quei tanti italiani che non leggono un giornale, non leggono un libro, eccetera eccetera, e non si fanno un pensiero critico, la cui unica cerimonia comunicativa avviene attraverso la televisione, e certamente c'è da mettersi le mani nei capelli. Infatti, e io spesso ormai si chiedono ma perché devono urlare ormai così tanto in televisione, ma si urla così tanto? Forse la soluzione l'ho trovata in questo esperimento sugli uccelli, un esperimento britannico secondo il quale gli uccelli che vivono in città cantano a volume molto più alto, con tonalità molto più alte dei loro cugini di campagna, questo per essere sentiti nonostante tutti i rumori del traffico. Quindi più la televisione diventa rumorosa, più c'è bisogno di urlare, probabilmente, no? Per farsi sentire. Ma sai, non è neppure esatto che sia così, perché se poi tu vedi le immagini del Parlamento italiano, ne sono state maestri, ne sono trascorse, diciamo, parecchie, eccetera, urlavano come pazzi. Eppure se tu vai a vedere, dato che tu parlavi del mondo online, che non è il mio, ma che certo è un mondo importante della realtà contemporanea, vai a vedere quello che scrivono sui blog, eccetera, eccetera, non è che urlino perché non si sente, ma è uno sproloquio assolutamente pazzesco, insomma. Cioè, la cosiddetta democrazia di massa, che giustamente dà la parola a tutti e tutti possono mandare sms, far sentire la loro opinione, eccetera, è un luogo, un circo, ahimè volgarotto alla sua parte, dove è difficile distinguere tra chi sta sproloquiando e chi sta parlando di una cosa che conosce. È molto difficile. Sono piuttosto d'accordo. Quando io ero ragazzo, cioè un paio di secoli fa, eccetera, non è che uno, insomma, poteva prendere la parola così facilmente, doveva sottoporsi ad alcuni filtri, non so se giusti e sbagliati, ma insomma doveva sottoporsi ad alcuni filtri. Noi che eravamo quelli che prendevano la parola nelle assemblee universitarie, nelle contese, eccetera, tutte sciocchezze, ma comunque eravamo quelli dei trenta e lode, cioè insomma, gente che un pochino, non dico sapesse di che cosa stava parlando, ma un pochino sì. Oggi tu prendi un blog, apri una cosa, eccetera, è una cosa impressionante. Sempre insieme a voi sino alle 15, sino a quando cioè apriranno i seggi. Sapete che sono oggi e domani giornate di tornata elettorale, oggi dalle 15 alle 22, domani dalle 7 alle 22 per votare per le amministrative, soprattutto per le europee e per le amministrative. Quindi so che diversi ascoltatori e ascoltatrici stanno chiamando per interventi di natura politica. Io vi devo dire che oggi, volenti o nolenti, insomma, bisogna rispettare il silenzio elettorale. Ritorneremo a parlare di tutto quello che vorrete sabato prossimo. Anche questo sabato si può parlare di qualsiasi argomento, delle notizie della settimana, non però di qualcosa che abbia a che fare con la politica. Allora, dicevo, vi sintetizzo sempre in modo parziale, perché sono talmente tante le notizie, alcune di questa settimana. Ovviamente abbiamo detto delle elezioni europee amministrative, l'incidente dell'Intercity di cui ci parlava la collega del Sole 24 Ore, che ha bloccato, ha diviso in due l'Italia per un po' di ore oggi nella linea Bologna-Firenze. Per fortuna sembra che tutto stia andando per il meglio. E poi, a proposito di elezioni, la chiusura della campagna elettorale nelle ultime ore con la scia, scusate, di polemiche ancora su veline, foto a Villa Certosa, voli di Stato con Berlusconi indagato a Roma, eccetera, eccetera. Il discorso storico di Barack Obama, presidente americano al Cairo, in Egitto, ha parlato di una soluzione per due stati per quanto riguarda Medio Oriente, quindi Israele e Palestina, e ha lanciato una proposta di un nuovo inizio nei rapporti tra Stati Uniti e mondo islamico. Poi sempre Obama, che è stato nel lager in Germania di Buchenwald, e ha detto: questo, con tutta la tragedia che trasuda ancora, è la risposta a chi nega l'olocausto, e si riferiva in particolare al presidente iraniano Ahmadinejad. Poi, sempre rimanendo negi Stati Uniti, la disoccupazione, che è al 9,4% ed è il livello massimo negli Stati Uniti da 25 anni a questa parte. Il primo ministro Brown, che è un po' primo ministro inglese, Gordon Brown, che è un po' nella bufera, perché con questa, soprattutto con l'ultimo scandalo dei rimborsi spese dei parlamentari gonfiati, e adesso il Labour, il suo partito, è anche andato male nelle elezioni europee, perché alcuni stati hanno votato prima, come Olanda, dove stanno avanzando le destre, e la Gran Bretagna, dove il Labour è andato molto male, e ha parlato di un rimpasto del suo governo. Dice: non voglio lasciare, sono la persona giusta per guidare la Gran Bretagna. Poi in India una bellissima svolta straordinaria. Sapete che ci sono state le elezioni più lunghe del mondo, perché è un paese immenso, e alla guida del Parlamento va la regina degli intoccabili. Sapete che ci sono varie caste, c'è quella degli intoccabili, proprio quella più misera, più bassa, addirittura non li si possono toccare, ed è Sonia Gandhi, col suo partito ha vinto queste elezioni, e l'ha voluta questa donna, quindi una donna e tra l'altro regina degli intoccabili, come guida del Parlamento indiano. Il disastro aereo dell'Air France, ancora tutti questi misteri, dubbi, non si trovano neanche i resti, e non si capisce bene quali siano state le cause. L'anniversario del massacro di Piazza Tiananmen in Cina, sono passati 20 anni. La giornata, ieri è stata la giornata mondiale della terra. Il terrorismo in Italia, sono stati arrestati 5 persone per attentati a Milano Bologna previsti nel 2006. La donna che voleva in Italia un figlio dal marito che è in coma da diverso tempo per una malattia incurabile, i giudici hanno detto no alla sua richiesta, è arrivato il verdetto finale. Poi c'è una cosa carina, che la Bauli ha trattato in questi giorni con la Nestlé per riavere panettoni di Motta e Alemagna, e sembra che due marchi tornino sotto il controllo italiano. Insomma, se vogliamo fare un po' di patriottismo anche per quanto riguarda i panettoni. Poi invece Totò, sapete che era stata sfregiata la sua tomba, era stato levato uno stemma, e poi però per fortuna è stato ritrovato, sembrava già pronto ad arredare una villa. Il tennis, parlando di tennis, clamoroso a Parigi Nadal, che è stato eliminato, il super campione spagnolo che aveva sempre vinto e non aveva mai perso, quindi. E poi un'altra cosa positiva, per essere un po' più leggeri: Whitney Houston, la grande cantante americana nera, che torna con un nuovo album ad agosto in tutto il mondo. Sapete che era dopo aver avuto un successo strepitoso ed essere nel Guinness dei primati perché l'artista più premiata al mondo, aveva avuto questa gravissima depressione, si era persa con questo marito che la picchiava e poi la incitava anche a drogarsi, insomma si era persa per diversi anni. Sembra che adesso possa ritornare finalmente al suo pubblico, lo speriamo. Gianpiero Mughini, c'è qualcosa in mezzo a tutto questo sul quale vorresti tornare? Sono tante. Ogni argomento ha i suoi aspetti positivi. Certo. Per quanto riguarda il tennis, che è uno sport che io amo molto, sono felicissimo che il mio idolo, cioè lo svizzero Roger Federer. Sia arrivato alla finale. E domani, che è domenica, alle ore 15, non c'è appuntamento che mi potrebbe allontanare. Meno male che non è stato oggi, allora. A ad incoraggiare il mio idolo, perché penso che Federer sia nel suo campo come Michelangelo, insomma. È una personalità molto diversa da Nadal, no? Che è aggressivo. Beh, Nadal è un bravissimo ragazzo, eccetera, un formidabile combattente, un muro umano che rimanda tutte le palle al mondo, però non c'è niente a che vedere con l'artista supremo. Federer più emotivo, forse, Federer. L'artista com'è? Supremo che è Roger Federer. Bene, bene, così mi hai parlato anche di tennis. Adesso cominciamo a dare spazio allora alle ascoltatrici e agli ascoltatori al numero verde che vi ricordo ogni tanto, 800 24 00 24. Sentirei Santo da Catania, direttamente dalla Sicilia. Santo. Pronto? Sai che anche Giampiero Mughini è siciliano, eh? Lo so, per questo, mi è molto simpatico, a parte tutto quello che dice io non sono quasi mai d'accordo, vabbè, ma come questa... persona mi è molto simpatica, veramente. Bene. E sono veramente d'accordo anche con lui nella sua ultima definizione della televisione urlata. Cioè, una volta almeno quello che si urlava, c'era qualcuno che sapeva cosa diceva, invece adesso no, è un aggrovigliarsi di voci senza senso. Tutto questo non accade neanche nella foresta, perché ogni animale si danno il turno, insomma, gli animali. Poi invece non si riesce bene a capire da che cosa e da chi uno si deve, cioè veramente non sono pienamente d'accordo con Giampiero, se mi posso permettere. Giampiero, si può permettere, sì, di chiamarti Giampiero Mughini, eh? Si può straperne. Ma Santo, tu ci sono dei programmi in particolare, dei canali, delle cose che guardi volentieri, delle altre appunto, quelle più urlate, forse cosa sono? Ma guarda, a volte sono tentato, sai quando quella cosa ti fa male, vuoi che ti faccia male per soddisfare? Sai, le tossicodipendenze, per esempio, no? Dalle nostre parti si dice che quello che ti piace da mangiare ti fa male. Sicuramente male. O ingrassa o ti intossica, sì. Ed è così anche per la televisione, cioè, francamente adesso, visto anche l'età, sono leggermente disgustato, perché ormai si sono attraversati, ma non soltanto, i limiti, anche forse di più, veramente, non riesco a seguirli, anche se provengo da una certa, diciamo, cultura nel dire certe cose. Provengo da una certa cultura editoriale di satira, quando si dicevano certe cose anche esagerate, ma in quel contesto storico forse aveva anche un senso. Adesso si urla e si sbraita per niente, cioè non vedo niente di morale, di assolutamente. Giampiero, tu sei ottimista, pessimista, è una strada senza ritorno? Io sono totalmente indifferente, totalmente indifferente, perché ripeto, è un gioco al quale partecipo volentieri quando mi chiamano, perché penso che uno che faccia di mestiere il comunicatore, se prescindesse dalla TV, sarebbe pazzo. E poi, perdonami Roberta, ma naturalmente sono in molti a parlare male della TV, ma sono in tantissimi che, pur di andare in televisione a mostrare il loro faccino, venderebbero le loro sorelle. Sicuramente, anche i fratelli. Che non dico la metà, ma più della metà dei programmi di televisivi è fatto di persone che vanno lì gratis. Io gratis non vado lì neppure a dire il mio nome e cognome, ma se ti racconto il palinsesto televisivo dalle 8 del mattino sino alle 2 di notte, la metà o i tre quarti o l'80% dei programmi è fatto da persone che vanno lì gratis, alcuni va bene per promuovere le loro opere, i loro film, i loro dischi, e questo è giustificabile, altri semplicemente per mostrare il loro faccino al prossimo. Quindi il fascino, ahimè, questo fascino morboso e demoniaco della televisione è molto diffuso. Io talvolta mi chiamano e dico: sì, ma lei pensa che io venga da lei gratis? E dice: ma tutti gli altri vengono gratis, insomma. Santo, allora ti ringrazio. A Catania che tempo c'è? Bel tempo, spero, no? Adesso? Cosa? Santo, c'è un buon tempo a Catania? Sì, io sono anche in un posto splendido che Mughini sicuramente conoscerà. Io sono quasi davanti ai Faraglioni di Acitrezza, un posto bellissimo. Acitrezza, Sì, Polifemo ha fatto benissimo a lanciare quei sassi, ma certo non per colpire Ulisse, chiaramente, ma per farci vedere uno spettacolo bellissimo. Io sono quasi davanti. C'è un mare verde. I colori sono accecanti, veramente. Che invidia! Io volevo fare una piccola domanda a Mughini. Sì. Da che cosa deriva questo protagonismo forzato di tutta questa gente che veramente vuole mettersi in mostra, anche come diceva lui, senza soldi, senza... come mai? Che è successo? Che cosa sta succedendo? Giampiero Mughini, è un tentativo sempre più disperato di eternità, che cos'è? Oppure... Ma sai, di eternità, di eterni ci sono i faraglioni che naturalmente conosco non a memoria ma meglio, avendo vissuto 20 anni della mia vita da quelle parti, non da quelle parti, a Catania, e quindi andavo a fare i bagni lì ai faraglioni con la mia ragazzetta di allora. Sai, questo è un mondo dell'immagine, della presenza, della parola pronunciata comunque, e allora la televisione, e poi la televisione è quella che accendono tutti. Io no, se scrivo per la pura, cose che a me, che contano per me, scrivere un libro, eccetera, eccetera, uno scrive un libro, ci lavora un anno e mezzo, poi se va molto bene per il tipo di libri che scrivo io, che non sono le barzellette, se va molto bene ne vendi 10.000 copie, ma deve andare molto bene. Se tu vai in televisione, nella più, la più squinternata delle trasmissioni, minimo c'è un milione e mezzo di persone che l'indomani dicono ti ho visto. È un bel volano, come hai capito, ti ho visto, ma cosa hai visto? E poi fanno dei commenti sul colore della cravatta, sulla montatura degli occhiali. C'è da non da cadere le braccia, c'è da buttarsi dal terzo piano rispetto a una società così. Per carità, Giampiero, grazie a Santo da Catania. Adesso, prima di lasciarci, ma ritorniamo veramente tra pochi istanti, ci prendiamo questa pausa, vi ricordo il numero verde 800 24 00 24 per i vostri liberi interventi. Chiedo a Ivan da Torino, prima di ritrovarci tra poco, solo qual è la tua notizia della settimana o l'argomento sul quale vuoi dire la tua, Ivan? Sì, buona giornata a tutti. Buona giornata a te. Buona giornata a Mughini. Si potrebbe parlare di ogni cosa a questo punto, allora, l'argomento è enorme, però principalmente quello che è la crisi, che è una crisi che secondo me, io da artigiano, avrei qualcosa da dire. Bene. È vero, non ci sono più le mezze stagioni, ogni volta ne abbiamo una riprova, meteorologicamente ma anche e soprattutto simbolicamente per tante cose, alcune vengono fuori anche così mentre chiacchieriamo in libertà. Sempre Roberta Giordano con voi, mio ospite di oggi è Giampiero Mughini, giornalista, scrittore e, come si definisce, provocatore intellettuale, talvolta saltimbanco televisivo, che ha pubblicato da poco con Mondadori Gli anni della peggio gioventù, L'omicidio Calabresi e La tragedia di una generazione. Ce ne parlava prima, ma stiamo poi andando di argomento in argomento. Grazie anche a voi ascoltatrici e ascoltatori, al numero verde 800 24 00 24, numero verde, numero gratis, al quale potete parlare, chiamare e parlare poi liberamente delle notizie della settimana. Vi dicevo dall'inizio che oggi è un po', diciamo che qualche paletto lo devo mettere per quanto riguarda argomenti politici, visto che siamo in silenzio elettorale. Oggi, appena finita la trasmissione, voi potete andare a votare, perché dalle 15 aprono i seggi per le elezioni europee amministrative, e così domani dalle 7 alle 22, quindi insomma temi politici cerchiamo di non trattarli. C'era però, ci siamo lasciati prima con Ivan da Torino, che aveva giusto annunciato che voleva parlare della crisi. Prego Ivan. Eccomi qua. Eccoci. Tanto qui mi calo il cappello davanti al signor Mughini, che penso che sia uno dei neuroni italiani, perché così lo si può chiamare, perché non è un meditatore, è un pensante. Io adesso non lo so, magari Mughini mi manderà da qualche parte, però è uno che con cui mi trovo bene ad ascoltare. Giampiero, vuoi mandarlo da qualche parte? Non credo. Voglio solo ringraziarlo e genuflettermi per la sua cortesia. Quindi, tra inchini e genuflessioni, cioè adesso possiamo... Dico una cosa, poi faccio quello che volevo dire. Prego. A chi non piace la televisione deve fare come faccio io, la spegne. E ascolti la radio, non è vero Ivan? Sì, io ascolto la radio perché lavoro, comunque ho studiato, ho fatto i miei studi, e poi io sono cresciuto in bottega, quindi crescendo in bottega e studiando ho scelto poi di fare il mio mestiere. Che è quello dell'artigiano, dicevi prima, no? È quello dell'artigiano, io in realtà poi sono un perito chimico e ho fatto conservatorio, quindi la mia è stata una scelta. È una scelta che ancora adesso sono contento di aver fatto. Senti, perché... che tipo di artigiano sei, Ivan, se posso chiedertelo? Sono un tappezziere in stoffa. Tappezziere in stoffa. Tappezziere restauratore. nel senso che mi occupo di tutti quei pezzi che hanno a che fare dal 1600-1700 e tratto con quelle quindi cose. Pezzi di pregio, insomma. Sì. Beh. Poi, vabbè, c'è, ormai siamo costretti ad avere a che fare anche col design, per carità. Niente si butta via, però quella è la mia specializzazione. E questa è la premessa. Invece, a proposito di crisi... La crisi. Mm. Si parla di crisi, si dice che ci sia questa grande crisi. La crisi c'è, se se ne vuol parlare, secondo me. Perché poi la crisi... che non me ne vogliono, perché chiaramente io lavoro in proprio, non navigo, capiamoci bene, perché uno dice, beh, lavori in proprio, ti metti tutti i soldi via, tu chissà quanto lavori, perché io lavoro anche la domenica, mi faccio l'orario continuato, e la classica parola che mi viene detto è, chissà dove li metti questi soldi. Sotto il materasso? No, funziona in quel modo lì, funziona che chi lavora in proprio ha delle grossissime spese, per carità se le va a cercare. Perché te le vai a cercare, hai le comodità di gestirti il lavoro come vuoi e di lavorare per le persone che vuoi, nulla, però quando io vado al supermercato e vedo che ha presente le offerte, cioè ci sono quelle offerte che dicono l'offerta del mese, in prima pagina c'erano sempre tutte le cose high tech, dai televisori all'iPod, qualsiasi altra cosa. Adesso c'è l'offerta del tonno, c'è l'offerta della carne, quella lì. Ma Ivan, c'è... tutto questo per dire che c'è o non c'è la crisi secondo te? Secondo me la crisi c'è per chi ci vuole credere. Cioè, secondo te non c'è crisi? C'è per chi ci vuole credere. La crisi c'è sempre stata, però qua il discorso è... Beh, questo caso è mondiale, però. Ti abbandoni. E stai lì a piangere. Io sono uno di quelli che dice in qualsiasi cosa bisogna adoperare un minimo di cervello, e dice a me quando mi arrivano delle cose da pagare e mi arrivano delle sassate una dopo la, ma parliamo di cose normali, tipo mi arrivano 3 multe, mi arriva l'IVA, mi arriva e mi arrivano insieme, dico porca miseria, questo mese come faccio? Mi fermo un attimo e dico bene, risolviamo una cosa per volta. Poi c'è chi però perde il lavoro e magari ha una famiglia, diversi figli, donne o uomini che sia, insomma, soprattutto se si è in un periodo in cui anche le aziende vanno, è tutto un circolo vizioso, no? Questa è una crisi che è partita dagli Stati Uniti e ha contagiato tutto il mondo, non è proprio tutta così, diciamo, immaginaria, Ivan. Poi che si debba reagire, questo è un altro paio di maniche, no? Passionali nel lavoro, bisognerebbe invece che dire noi compriamo questo, compriamo l'altro, ritornare un attimino, fare un passo indietro e tornare alle piccole botteghe, tornare alle piccole cose, alle piccole conduzioni familiari, perché tanto io sono, per esempio, io se vado a comprarmi qualcosa da vestire, con il mio piccolo aiuto, io magari lo do in questo modo qua, io compro il Made in Italy, sembrerà una cretinata, ma io se devo dare il mio aiuto, piuttosto che dare l'incentivo per quello e l'8 per mille da un'altra parte, non me ne frega assolutamente niente. Io il mio volontariato lo faccio in quel modo. In questo modo, tu fai la tua scelta, diciamo così, etica. Ivan, allora mi fa venire in mente, tra le varie notizie di questa settimana, questo studio della Nielsen, il centro ricerche Nielsen, che fa notare che i consumi ovviamente cambiano. Si diceva anche che la crisi porta a una messa in discussione di certe cose, anche di certi valori, a scelte più etiche. Beh, comunque, insomma, poi in soldoni, come cambiano i consumi? Meno vestiti e più weekend. Quindi, secondo questa ricerca Nielsen, c'è anche la mortadella al posto del prosciutto, insomma, le sostituzioni che si fanno quando si hanno meno soldi. Però è come se gli italiani cercassero soprattutto consumi consolatori, secondo Nielsen. Quindi, appunto, non so, un fine settimana per gratificarsi e si rinuncia ad altre cose, oppure una crema di cioccolato da spalmare molto famosa. Insomma, certi consumi vanno forte perché un pochino bisogna gratificarsi. E poi un'altra cosa curiosa, invece questa era una ricerca della Federalimentare, sempre di questa settimana, che un vero boom c'è stato per quanto riguarda la spesa alimentare delle vaschette pronte di verdura, un più 11,6% negli ultimi mesi. Tu anche, Giampiero Mughini, fai grande consumo di verdura in vaschetta? Beh, naturalmente bisogna combattere il grande nemico contemporaneo che è il tempo, la disponibilità bravo, di tempo. Bravo. La nostra vita, il tempo è denaro, diceva zio Paperone. Oggi non ci sono i nazisti alle porte che abbaiano e minacciano, il problema è il tempo, dividere le 24 ore della giornata, che 24 sono e nessuno le può cambiare, con le varie circostanze. E quindi la verdura alla vecchia maniera, le nostre madri o forse le nostre nonne che la prendevano, la spogliavano fiocco per fiocco, eccetera, tutto questo non è più possibile, non esiste questa possibilità. E dunque da una parte i surgelati, da una parte queste vaschette, insomma tutto ciò che è preconfezionato, c'è niente da fare, ti aiuta a vivere, perché se no cosa fai? Naturalmente perdi qualcosa ma ne guadagni qualche altra. Cosa intendo dire che guadagni? Beh, voglio dire che l'uomo contemporaneo ha comunque a disposizione una gamma di servizi, di possibilità, di informazioni, di comfort che è impressionante. E prima erano impensabili. Nella Sicilia, appunto, perché io sono nato a Catania, della mia infanzia, della mia giovinezza, stiamo parlando degli ultimi anni 50, eccetera, eccetera, beh, insomma, ragazzi, era dura proprio per tutti, per la borghesia media, medio-piccola, come era la mia, e oggi, insomma, non è così. Oggi le possibilità, i comfort, gli strumenti sono a disposizione di tutti. E c'è un termine che io odio, il termine consumismo, usato in maniera sprezzante, perché a quelli che usano il termine consumismo in maniera sprezzante io li vorrei portare a calci nel deretano in quell'Italia degli anni 50 dove non avevamo nulla di nulla di nulla. Ma per certi versi non si era migliori? Qualcuno dice, io non c'ero. No, dai, su via, era un paese piccolo, provinciale, bigotto, dove non c'era il divorzio, ma naturalmente tutti facevano le corna a tutti, dove non c'era un'informazione sviluppata, dove nessuno conosceva le lingue, ma di che cosa stanno parlando? Dove la disparità uomo-donna era infinitamente più grande di adesso, ma insomma, assolutamente, ma le donne stavano relegate auto in cucina, auto non so dove, eccetera. Poi la generazione di donne che irruppe nella prima fila sono state le mie compagne di università, le ragazze che avevano allora 19-20 anni, che facevano esattamente le cose che facevano noi, che facevamo noi. Poi non so perché a un certo punto della storia queste ragazze si ribellarono contro di noi, ripeto, avevamo fatto sempre le stesse cose, e dissero che noi eravamo dei criminali, dei delinquenti. Io mi sono un po' sorpreso perché non me ne ero accorto, sarà stato che ero distratto. No, magari non tu, Giampiero, ma magari altri uomini. Adesso vorrei andare un attimo sulle agenzie degli ultimi minuti, per chi interessasse per esempio la Formula 1. Il pilota della Red Bull, Sebastian Vettel, ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Turchia, secondo la Brown GP di Jenson Button, mentre la Ferrari di Kimi Räikkönen è sesta davanti al compagno di squadra Felipe Massa. È sempre il numero per voi è 800 24 00 24. Sentiamo Giorgio da Padova. Giorgio. Ah, buongiorno. Buongiorno Giorgio. Buon weekend Roberto e buon weekend a Giampiero. Grazie Giorgio, ti sento di ottimo umore. Vabbè, è sabato, sto rientrando, sono partito domenica sera, sto tutta la settimana in Europa. Oh, caspita, privilegiato. Benissimo. Ma di lavoro? Per lavoro o per vacanza? Lavoro, conducente mezzi pesanti. Ah, bene, bene, quindi un lavoro pesante, proprio come il termine stesso dice. Giorgio, che cosa ci racconti? Visto che volevo fare due chiacchiere da bar, una è la politica e l'altra è lo sport. Politica non si può, politica, stiamo sullo sport. Sì, sì, approfitta di Mughini. Vai Giorgio, approfitta. Due domandine giuste, proprio sulla Juventus. Sì. Cosa gli è sembrato questa settimana? Io ne ho abbastanza di tutti i problemi. Oggi è sabato, qualcosa di leggero. Ma sì, Giorgio. Mi dice cosa pensa di questa nuova Juventus che si sta formando adesso. Ma ti piace Ferrara, Ciro Ferrara, a te? Grande, mia madre lo chiama il mangiatore di budino. Sicuramente è simpatico, poi vedremo come l'allenatore. Giampiero Mughini, adesso sollecitato sullo sport e la Juventus in particolare. Ma sai, non si fanno pronostici perché i pronostici sono appunto da bar. Naturalmente Ciro è un grande personaggio, è stato un grande campione, è un uomo di una simpatia straordinaria, un napoletano estroverso, sorridente, eccetera, e quanto all'esperienza uno se la fa. Poi sai, non ti dimenticare che l'allenatore non fa i miracoli, non è che moltiplica i pani e i pesci. A me viene da ridere questi discorsi che fanno su questo giovane e certamente valoroso allenatore del Barcellona che si chiama Beppe Guardiola. Beppe Guardiola sarà stato bravo e bravissimo, però poi in campo ci sono andati Messi, Iniesta, Xavi. Sai, se li alleno io, Messi, Iniesta e Xavi, qualcosa facciamo. Mentre se io alleno, o io o Ciro Ferrara, alleno cretinetti, stupidini e scemotti, non è che facciamo tanto. Cioè il talento deve essere tutto nei giocatori. Poi, no, I giocatori vanno in campo. Comunque Ciro va benissimo, è uno di razza juventina e quindi queste cose... Poi se parliamo di questo argomento fra un anno sarò ancora più preciso. Molto bene, quindi tra un anno preciso Giampiero Bunghini qui. Sei soddisfatto Giorgio da Padova? Guarda, vi ringrazio entrambi e vi lascio un buon weekend entrambi a voi e a tutti gli ascoltatori. Anche a te. Ciao, Giorgio. Grazie. Giorgio, buon divertimento, guida piano. Siamo ancora insieme per circa un quarto d'ora, Roberta Giordano con voi. Tra poco dalle 15 potrete poi andare a votare sino alle 22 di stasera e domani dalle 7 alle 22 per le elezioni europee, le elezioni amministrative. Chiedo ancora scusa agli ascoltatori e alle ascoltatrici se non riesco a farli passare velocemente, ma vi dicevo una puntata particolarmente movimentata questa di oggi. 800 24 00 24 e chiedo a Mino da Frosinone. Mino, so che da tanto che aspetti, allora ti do spazio, riesci a essere sintetico, Mino? Grazie, scusa. Ci provo. Prego. Allora, prima di tutto complimenti per la trasmissione e condivido in pieno quello che dice il dottor Mughini per quanto riguarda anche le ultime cose che ha detto e per quanto riguarda la televisione. Io volevo intervenire per quanto riguarda appunto la questione dei cinesi. Sono 20 anni dalla strage di Piazza Tiananmen. Sì. E tutti quanti, esatto, tutti quanti abbiamo ricordato amaramente quella tragedia, però in questi 20 anni non c'è stata, come dire, nessuna pressione verso il governo cinese per far pesare appunto questa grandissima violazione dei diritti dell'uomo, questi, come dire, omicidi solo per reati di opinioni. In Cina in questi anni si è continuato ad ammazzare circa 10.000 persone all'anno, quindi continuare con la pena di morte tranquillamente, e nessuno mai ha fatto, come dire, nessun governo, se vogliamo, ha fatto mai pesare questa cosa. Anzi, delegazioni di tutti i governi mondiali sono andati in Cina a fare visite. Mino, poi chiederemo a Giampiero cosa ne pensa, ma è chiaro che la Cina è ormai in modo conclamato una potenza mondiale, un grande partner commerciale, fa anzi paura, e quindi probabilmente, sai, quando ci sono di mezzo questi interessi. Però poi Mino, ti ringrazio di averlo ricordato. Poi ritorniamo con Giampiero Mughini, che è mio ospite di oggi, appena pubblicato Gli anni della peggio gioventù, l'omicidio calabresi e la tragedia di una generazione. Però spazio a Rosanna Santonocito. Rosanna. Ciao Claudia. Roberta, sono qua. Roberta. So che sei in mezzo a un sacco di cose, di persone, ti stai occupando di una maratona particolare, quindi ti rubo poco tempo, dimmi di cosa si tratta. Sì, cominciano ad arrivare i lettori della Job Marathon che si tiene oggi, è una maratona di lettura che si tiene a Milano, alla sede del Sole 24 Perché Ore. Perché ricordo che Rosanna Santonocito è di Job 24, il canale del Sole 24 Ore dedicato al lavoro. No, è dedicato al lavoro, sì. Job24.it e il blog Job Talk. Sì, stanno arrivando, come dicevi tu, perché oggi dalle 3 alle 8 di stasera ci sarà qui alla sede del Sole 24 Ore, PricewaterhouseCoopers, Viale Monterosa 91 a Milano, un reading dedicato al lavoro. Chiunque abbia un brano di un libro, non necessariamente un libro sul lavoro, anche un romanzo che in qualche pagina parla di lavoro, una canzone, una poesia, può venire a leggerlo con noi. Qui alla sede del Sole 24 Ore in Viale Monterosa 91 Milano. Abbiamo già un centinaio di iscritti, può venire tranquillamente e nel flusso della lettura continua vi faremo sicuramente entrare. La cosa curiosa è che, come scrive Umberto Eco, non ci libereremo nemmeno nell'era di internet troppo facilmente dei libri, questo evento che si basa sulla parola scritta e sulla vicinanza delle persone, perché siamo tutti qua a leggere insieme, è stato possibile solo perché c'è internet, perché grazie a Facebook, Twitter, al blog JobTalk, al sito del Sole 24 Ore, siamo riusciti a fare un gigantesco passaparola e a organizzare questo evento. Rosanna, so che ci sono anche vari scrittori veri, a parte quelli appassionati di lettura, ma ci sono... Sì, hanno aderito un sacco di scrittori, ci saranno Paola Calvetti, ci sarà Luigi Frisi, ci sarà Francesco Buratto, Alessandro Rimassa della generazione 1000 euro, insomma ci sono gli scrittori della corrente Pretoria, quelli che raccontano le storie dei giovani come vivono oggi in azienda, e anche scrittori che scrivono d'altro ma che leggeranno parti dei loro libri dove si parla di lavoro e dove e si leggeranno anche i libri che sul lavoro li hanno più impressionati. Grazie Rosanna Santoroncito, quindi se volete qui alla sede del Sole 24 Ore in Viale Monte Rosa 91. Grazie Rosanna. Spazio adesso al colonnello Giuliacci, chi in poche parole ci dirà che cosa ci aspetta per questi giorni dal punto di vista meteorologico. Colonnello. Ciao Roberta. Ciao carissimo. Seduto, ma di fronte a una bella donna mi devo mettere in piedi? No, me lo dici. Poi verificherò con voi. Voi non lo sapete, Roberta è una bella fanciulla. Se lo dici tu. Grazie. Dimmi, bello, troppo buono. Allora guarda, sono io che devo dire. Anzi, ma splenderà il sole in fronte a me in questi giorni. Ma guarda, direi che sul 70% dell'Italia splende il sole. Le aree meno privilegiate sono quelle del nord, dove pioverà nel pomeriggio, beh, sulle Alpi centro-occidentali, sul Novarese, sui Laghi, il Melanese, Bergamasco, Bresciano, Friuli, Venezia Giulia, l'Alta Toscana e rilievi tosconigliane. Quindi, come vedi, rappresenta appena il 20% dell'Italia le aree dove piove. Quindi, stanno bene sotto la pioggia. Nella sera poi migliora quasi ovunque, quindi anche quelle aree dove, che ho citato, resterà qualche piovasco limitatamente alle Alpi, il Friuli, l'Alta Toscana. Domani, domani ancora migliora ancora. Direi che le aree di sereno si estenderanno, se troveremo ancora delle piogge saranno nel pomeriggio sulle Alpi, sulle Venezie, sulle zone interne del centro, ma temporale, cioè non sarà questo maltempo che inizia al mattino e finisce alle ore 24. Ma sarà il tipico estivo, così ogni tanto. Soprattutto al pomeriggio dura un'ora, poi settimana, vuoi dire. Tutto sommato sono anche qualche volta gradevole perché ti rinfrescano un po', e lavano la macchina, portano volta, anche l'acqua nel giardino, quindi non ti richiedono di dover impegnarti nel irrigare in attività, avendo poco tempo. Colonnello, dici solo in una parola, settimana prossima sarà abbastanza generalmente prossima grosse novità non ci sono, se non una, ma mettiamola così come possibilità, perché io ti sto dando una previsione con 8 giorni d'anticipo. È probabile che nel fine settimana prossimo ritorni il caldo. Però il caldo in estate ci sta, torni un'ondata di caldo, però vuol dire niente nuovo sotto il sole. E prenderemo un ventaglio, via. Sei d'accordo? Sono d'accordo. Grazie, colonnello Giuliacci. Grazie, Roberto. Un salutone a te e agli ascoltatori. Grazie. Un solare fine settimana a te. Sentiamo prima ancora di Giampiero Mughini, Cinzia da Bologna, numero verde 800 24 00 24. Cinzia. Buongiorno. Buongiorno a te. Io da pochissimo ho riletto un libro che era stato scritto a 10 anni dalla morte di Rostagno, e mi sembra di avere così in un appunto sentito citare Mughini. Volevo sapere che tipo di rapporti aveva avuto con Rostagno. Giampiero, grazie. Cinzia. Grazie a voi. Grazie. Rapporto con? Rostagno. No, dunque, io non avevo conosciuto personalmente Rostagno. Rostagno aveva iniziato la sua avventura umana, intellettuale e politica alla facoltà di Trento. Io a quel tempo addirittura studiavo in Sicilia, quindi le nostre due ubicazioni erano molto diverse. Poi lui venne a Milano, divenne uno dei dirigenti delle origini di Lotta Continua, attraversò anche lui la sua crisi e il suo ripensamento. Lotta Continua si è sciolta nel 1976 e poi Rostagno andò a Palermo, dove fra l'altro, oltre che una comunità di cui era uno dei dirigenti, una moglie che faceva parte anch'essa di questa comunità, prendeva la parola in una TV locale, e quel prendere la parola gli è costata la vita, perché dei bastardi, io non ho mai avuto dubbi naturalmente che fossero dei bastardi, i sicari mafiosi, gliel'hanno tolta la vita. Mauro Rostagno è anche lui uno dei personaggi letterari della mia generazione, un ragazzo che ha fatto molto zigzag, ma lo dico a suo onore, Io non l'ho conosciuto personalmente, certamente ho un ricordo di lui molto commosso. Anche lui a un certo punto ha sfiorato la peggio gioventù. Io ricordo, perché lo abbiamo citato parecchie volte, quelli che si occupano di queste cose, un famoso articolo che lui aveva scritto, ma probabilmente l'aveva scritto senza neppure sapere bene cosa stava scrivendo, e cioè che il rumore delle raffiche di una mitragliatrice erano molto meglio che il ticchettio di una macchina da scrivere. Ecco, queste porcate. Sarebbe stato meglio non averle mai scritte, ma lui probabilmente l'ha scritta e può essere subito dopo di valore. Infatti, adesso intanto ringrazio, prima che si concluda la puntata, alla parte tecnica c'è Peter Bescapè, poi l'assistenza di regia Gigi Borghi, c'è Valeria Della Valle, alla quale, Valeria, tu sai, diciamo 100, 120, 112 secondi abbiamo, Valeria, perché, come al solito, scelgo io, scegli tu la mia linguista della Sapienza di Roma, cui sono affezionatissima, ma so che avendo un cervello molto veloce io posso permettermi. Allora io ti direi, per questa settimana, nella campagna elettorale ho sentito spesso dire persona umana, che secondo me è un termine tautologico, cioè una ripetizione un po' inutile, che fu coniato, se non ricordo male, da Papa Wojtyla, ma era polacco, quindi si poteva capire. E poi ci sono, non so, per esempio questo non arrivare a fine mese, non so se è una frase che tu hai voglia di commentare, visto che è molto attuale. Sì, voglio di commentare tutto, ma non perdo tempo per dire, no, l'espressione persona umana ha un senso, di solito viene usata, come tu ricordavi, soprattutto in ambito religioso, perché si distingue la persona umana da quella che è la persona fisica, cioè l'individuo giuridicamente considerato. Quindi quello che a noi sembra forse ridondante, un po' inutile e enfatico, perché tutte le persone per noi sono umane, però ha un senso preciso linguistico, soprattutto in ambito religioso. Però qui mi fa piacere ricordare che la parola persona viene dall'etrusco fersu, e significava originariamente in etrusco maschera, e questo perché lo cito, non per così fare sfoggio, ma perché mi riporta al fatto che oggi sempre più spesso, invece di usare solamente la parola persona, si tende a dire personaggio, no? Tutti sono personaggi. Allora, come diceva Mughini in televisione, tutto si tiene, anche nei discorsi che facevate e che facevi con Mughini, perché il rischio è che si tende a diventare tutti personaggi e non persone, e quindi forse anche saltimbanchi. E questa è la prima. Per arrivare alla fine del mese sarò ancora più veloce, sì, per dire che oramai sì, anche questa, tutte le frasi quando si sentono ripetere troppo finiscono quasi per svuotarsi di significato, vero, no? Per diventare stereotipate. Il significato lo sappiamo tutti. Vorrei ricordare che intanto presuppone che chi non arriva alla fine del mese abbia però almeno un minimo stipendio, una minima pensione. Ecco, la frase ha finito per soppiantarne un'altra che forse aveva più colore e sapore: sbarcare il lunario. Una frase nata nell'Ottocento e che voleva dire non tanto arrivare alla fine del mese, ma arrivare invece alla fine dell'anno, perché il lunario stava a indicare il calendario, che era già un tempo un po' più lungo, almeno si stava meglio. Allora, va bene, grazie Valeria Della Valle, che bacio con trasporto, perché è sempre questo sforzo di sintesi straordinario, e mi perdona sempre Giampiero Mughini, grazie infinite di essere stato con me e con noi. Grazie a voi, buona domenica. Alla prossima, ciao Giampiero, e da Roberta Giordano a voi, veramente, un felice fine settimana.